Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Alcune rapidissime informazioni: mail unabusoalgiorno@radio24.it, il nostro sito invece è radio24.it, il mio blog Guardie o Ladri lo trovate tanto sul sito di Radio 24 quanto su quello del sole24ore.com. Allora, ricorderete che avendo ospite qui in studio un collega giornalista che aveva denunciato la situazione per la quale, andato a comprare un paio di televisori, la catena Euronics aveva chiesto, come dire, un sovrapprezzo perché fossero ritirati i suoi vecchi televisori, ricorderete che noi su questa denuncia facemmo una puntata da cui Euronics diede le sue giustificazioni, disse che, insomma, in buona sostanza di un malinteso si era trattato e che comunque, come dire, questa legge che obbliga al ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in ogni caso, insomma, qualche difficoltà la stava portando. Noi abbiamo avuto un radioascoltatore molto, come dire, molto attento, davvero molto attento di Trento, Alberto Sordo, che gestisce un piccolo centro di assistenza per piccoli elettrodomestici proprio in questa splendida città, e ci ha scritto dicendo: va benissimo quel che voi avete detto, va benissimo che non era corretto chiedere soldi per il ritiro delle apparecchiature, perché è un dovere che scatta dal 18 giugno, è scattato dal 18 giugno 2010, però attenzione che le difficoltà per noi operatori, soprattutto per noi piccoli operatori, sono enormi. Ed è per questo che noi abbiamo chiamato a parlare con noi il signor Alberto Sordo. Buongiorno Sordo. Buongiorno dottor Galullo. E abbiamo a parlare con noi anche la dottoressa Alessia Andreatta, che è la responsabile, poi capiremo perché entra in causa, la responsabile del centro di raccolta di questi rifiuti, che si chiama, la società si chiama Dolomiti Energia Trento, che ha proprio il compito di raccogliere questi rifiuti. Buongiorno dottoressa Andreatta. Buongiorno, buongiorno. Allora, io direi di partire da lei, Sordo. Lei che cosa ci ha fatto presente? Ci ha detto: attenzione, noi dobbiamo ritirare gratuitamente, ma da quel momento scatta per noi una serie di difficoltà. Le illustri, prego. Una, che c'è una legge che obbliga i commercianti a fare un servizio gratuitamente. Cioè gratuitamente al cliente, che tra l'altro invece a sua volta paga per il servizio, ma con oneri propri, nel senso che i commercianti non sono pagati da nessuno per fare questo servizio di ritiro e consegna degli apparecchi ritirati, perciò bisogna farlo a spese proprie. L'altra difficoltà è che a oltre un mese dall'entrata in vigore della legge, purtroppo non sono ancora pronti i centri di raccolta, quando noi abbiamo l'obbligo di consegna dei prodotti RAE entro un mese dal ritiro. Esattamente. Quello che ci faceva presente il signor Sordo è anche che intanto loro piccoli gestori, piccoli commercianti non possono avvalersi di terzi per portare nei centri di raccolta questi rifiuti. Se lo fanno, lo fanno a spese proprie, affittando un camioncino, quindi c'è un grande costo per loro, quindi questa è anche un'anomalia. Le sanzioni penali sono anche abbastanza forti, perché vanno da 100 a 450 euro per ogni apparecchiatura che non è stata raccolta e portata nel centro di raccolta. Certo è che però una cosa va detta: se la legge è distorta o comunque presenta delle pecche, ce ne stiamo rendendo conto, questo non vuol dire che debba poi ricadere il costo occulto comunque sul consumatore, perché altrimenti è una guerra tra poveri. Credo che su questo, Sordo, lei sia d'accordo, no? Su questo siamo perfettamente d'accordo. Esatto. Altrettanto non è ammissibile che qualcuno debba lavorare gratuitamente. E questo è un problema, tra l'altro, dove non c'entrano gli operatori dei centri di raccolta, ma è proprio la legge che impone questo. Allora, io direi, come amo spesso ripetere, questa è una trasmissione che serve per capire e individuare anche i problemi. Abbiamo sentito la chiarezza di Sordo che non imputa colpe, dice semplicemente questa è la situazione. Allora, l'altra parte, anzi, qui ci sono diversi aspetti. Un altro aspetto di questa vicenda è proprio il centro di raccolta che a Trento è gestito da Dolomiti Energia. Allora, dottoressa Andreatta, anche voi siete stati colti, come dire, di sorpresa da questa legge? Quali sono le difficoltà che voi oggi vivete? E io mi permetto di dire una cosa senza alcuna polemica, ma perché credo che sia una cosa oggettiva. Se una città, come dire, che è una, veramente una culla della civiltà come Trento, e lo capiamo anche proprio dalla pacatezza con cui Sordo ci ha scritto e ci ha parlato e dalla disponibilità della dottoressa Andreatta ad intervenire. Se una città come Trento, organizzatissima tra le altre cose, una culla del bel vivere, ha queste difficoltà, lasciatemelo dire, figuriamoci che cosa può accadere in altre città grandi o medie, che cosa può accadere man mano che si scende verso il sud. Allora, dottoressa Andreatta, vi ha colto di sorpresa questa legge? Beh, l'applicazione del decreto ministeriale 8 marzo numero 65 è attesa di fatto da anni, in particolare da quanto è stato emanato il decreto legislativo 151 ancora nel lontano ormai 2005. Quindi di sorpresa direi forse no. Quello che ci ha sorpreso è stata l'inadeguatezza degli strumenti messi a disposizione dagli enti ovviamente preposti a farlo rispetto all'immediata richiesta di applicazione di questo decreto. Eh sì, perché è entrata in vigore il 18 giugno 2010, quindi cotta e mangiata, insomma. Esattamente, il decreto è stato emesso, ha previsto una data per quanto riguarda sia la distribuzione che i centri di raccolta, che è appunto quella del 18 giugno, ma gli strumenti per applicarlo di fatto stanno via via per essere messi a disposizione, ma con una lentezza che insomma ci ha abbastanza colpiti. Ecco, ma che cos'è che vi manca oggi? Perché il nostro radioascoltatore commerciante sordo e con lui tutti i commercianti di Trento, ma direi tutti i commercianti d'Italia, si trovano in una situazione complessa. Devono portarvi entro un mese, se non lo fanno sono denunciabili penalmente, ma dove vanno a portarli se non ci sono i centri di raccolta? Come possono accumulare una serie di rifiuti enormi? Forse possono permetterselo delle grandi catene, ma non credo neppure loro. Quindi che cosa manca e che cosa possiamo dire ai tanti commercianti che sono all'ascolto in questo momento? Ovviamente per quel che la riguarda, per la provincia di Trento, se è ben chiaro. Certamente. Beh, in primis il protocollo d'intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori ed i gestori dei centri di raccolta di rai domestici è stata di fatto siglata a Roma il 24 giugno, quindi assolutamente dopo la data di entrata in vigore. Un accordo che ha previsto e sintetizzato delle linee guida interpretando e rendendo anche più chiare alcune parti del decreto. Questo accordo prevede alcune cose, tra le quali ovviamente la predisposizione del portale RAE attraverso il centro di coordinamento, che è il centro preposto poi al ritiro di questi RAE nei centri di raccolta, che è di fatto attivo per i gestori da qualche giorno. Ecco, ma voi più. In questi giorni state raccogliendo comunque o vi state rifiutando perché non sapete dove mettere le cose? Allora, o non avete un portale, non avete, come dire, un registro telematico? Qual è la situazione a Trento? Mi viene il male a pensare come può essere in altre città. Allora, il portale è attivo da qualche giorno per la parte dei centri di raccolta e quindi i centri di raccolta da pochi giorni possono essersi accreditati e quindi aver scelto se disponibili o meno organizzativamente e tecnicamente ad accettare questi centri di raccolta. Quindi questo è stato il primo problema fino a qualche giorno fa. Il secondo grosso problema è che noi non conosciamo ancora a valle il conferimento come verrà, il ritiro presso di noi come verrà effettuato. Mi riferisco in particolare alle unità di carico che ci potranno essere fornite, al raddoppio degli spazi e dei volumi che ovviamente dovranno essere messi a disposizione. Insomma, perché problemi, comunque problemi non da poco, mi pare di capire. Non da poco, unitamente al fatto che questo accordo di programma non ha a mio parere, completamente chiarito alcune, diciamo, tratti ancora nebulosi di quanto contenuto nel decreto, nel decreto ministeriale 65, perché il decreto ministeriale 65 è entrato a ha cercato di esemplificare quelli che erano le modalità di trasporto, di stoccaggio e la documentazione che deve essere allegata rispetto al 152. Allora, io la fermo, dottoressa Andreatta, perché il tema è davvero interessante. Torneremo, ma lei e il radioascoltatore sordo di Trento ci avete sicuramente aiutato a capirne di più, ma anche a capire la difficoltà che c'è da parte vostra, da parte degli operatori e da parte dei consumatori, quindi di conseguenza. Grazie davvero di cuore, grazie regia Peter Bescapè, in studio a Valeria Coffaro, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.